sposati si diramano bottino in mano. Tutta la scogliera è un formicaio. Corre Rerufradia rutte ciauli, dai monumenti salta il capitano. Abbiamo spento la città, non c'è lumera. Lulusciu lu fai tu sti gattiana. Voli fra le rocce, io che strico a terra con il culo come un vecchio martirupo ad ogni buco. Non parlarmi, scusa, non mi guardare, mi fai sconcentrare. Mentre faccio un film su te che inciampi, io ti salvo al volo e inizio a rotolare. Mi rialzo a posto, non è niente, tutto bene, fingendo di non aver perso pure l'altro piede. Per magia, sopra l'acqua una nube, una scia di fiammelle, una per ogni barca ribelle. Tutto il mare come un cielo trapunto di stelle. Che allegria farsi beffe della polizia. In fretta sciame di luccioline c'è da scomparire. Due nascondigli il mare li divide, dove io non ve lo posso dire. È lì che ci si impegna e si organizza la ribalta, è mai una festa che si sarra. È forse troppo umido, non un granché l'odore, ma da